I miei fra fanno veri affari con i ferro addosso come metallari. Occhio che non sgari, o ti fanno loro lo sgarro. Vogliamo l'oro e metallo, fumi la lore. Se sciallo tanto mi rimbo il portafoglio. Giriamo per strada, facciamo gli affari. La merce pressata, il logo è Ferrari. Un nuovo pezzo, tanto è il prezzo. Cercaci in plaza o nei fuori orari. Por la calle, lungo e mitraglie. Tagliano la faccia a STMC che dicono franco ignorante. Zio licido in tutti i sensi. Compro le maglie e due paia di scarpe. Tu spendi soldi per fit dei pezzi. Se cerchi roccia noi siamo i più grezzi. Stati paroccia in pace a tre etti. Sotto la pioggia muoviamo, capisci i concetti. Zero concerti, si rapper con i culi aperti. Da quanto l'inculo c'ho il cazzo che è rosso come la Ducati. Sogno una Bugatti, girare ubriachi, coi vetri oscurati. Una tipa mezza nuda sopra, non tocco i pedali e ci siamo scantati.